America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York. Mario Platero. FIFA, the governing body of world football, under huge pressure after a clutch of officials were arrested yesterday morning, ran in a Swiss hotel. Anche le Nazioni Unite sono intervenute ieri da New York nella vicenda FIFA. Beh, le Nazioni Unite hanno avvertito che se le cose non cambieranno potrebbe esserci una rottura tra un accordo di partnership fra il Palazzo di Vetro e l'Organizzazione Mondiale per il calcio. Le pressioni dall'America salgono, l'FBI ha fatto sapere oggi che potrebbero esserci delle altre inchieste. Sappiamo che la UEFA, l'organizzazione europea, ha chiesto la testa di Blatter, di Sepp Blatter, che è il capo ormai da vari decenni di questa organizzazione, e dunque ci avviciniamo fra poche ore a un momento chiave, un momento cruciale in cui ci sarà uno scontro epocale fra molti regioni del mondo, con uno schieramento che vedrà sicuramente invece dalla parte di Blatter Vladimir Putin e la Russia. Io con me ai microfoni di America 24 per chiacchierare, per discutere di questa cosa, per eviscerare un pochino quello che è successo anche qui dal côté americano, un grande esperto in materia di calcio, e cioè Vittorio Zucconi. Buongiorno Vittorio. Buongiorno Mario, buongiorno a tutti. Eccoci, Vittorio Zucconi non ha bisogno di presentazioni, ma lo sapete, inviato di Repubblica, direttore della radio di Repubblica e così via, così via. E soprattutto grande esperto di calcio. Vittorio, ma tu te l'aspettavi che questa cosa venisse dall'America? Che l'America, che in fondo è così, è il parente povero del calcio mondiale, e poi è quello che porta allo scompiglio nel calcio mondiale? Ma Mario, è parente povero fino a un certo punto però, perché i grandi sponsor dei mondiali, quelli che versano una barca di soldi, sono poi grandi multinazionali americane, quelle delle bibite, quelle dei panini, quelle dell'abbigliamento sportivo, quindi c'è un investimento importantissimo di soldi americani in questo business ormai globale. Non c'è sport più globale del calcio adesso, poi con l'esplosione della Cina che è entrata prepotentemente nel mercato del calcio, vuol comprare squadre eccetera, quindi non sorprende che l'America si sia mossa, anche se dal punto di vista dello sport in sé l'America rimane una potenza minore rispetto ad altre nazioni. Ma soprattutto la cosa più paradossale e ironica di questa vicenda è che fu proprio Blatter, fu la FIFA a scegliere un americano per fare questa indagine, cioè Michael Garcia, il quale fece questa indagine essendo americano e arrivò a scoprire delle cose che, diciamo, sono un po' sul piano della scoperta dell'acqua calda, come scoprire che in Sicilia c'è un po' di Cosa Nostra, in Calabria c'è l'Andrangheta o a Napoli c'è la Camorra, e da lì è partita la famosa palla di neve che è diventata valanga. Hai detto bene tu, non è soltanto la Russia che lo fa per antiamericanismo, lo fa perché ovviamente ha interesse a mantenere i mondiali, ma perché c'è dietro quella schiera di piccole nazioni che sono quelle che fanno la maggioranza, perché lì uno vale uno. È come le Nazioni Unite. Ecco, però qui si è posto un problema. Io ho visto molto dibattito anche su internet, in Italia, su Twitter, in cui molti dicono: ma qui la scelta dell'America è politica, hanno voluto fare questo per colpire la Russia, per creare dei problemi a Putin. Allora, cominciamo a dire che la posizione di Blatter è insostenibile, perché qui non si tratta di fare il solito discorso del non poteva non sapere, ma tutte le persone che sono state incriminate, un paio delle quali già hanno parlato, erano state scelte da lui. Allora sì, è vero che, come ripeteva per esempio Antonio Di Pietro in Italia, anche Gesù si sbagliò con uno e scelse un Giuda, ma insomma, però gli altri 12 erano abbastanza attendibili come apostoli e lui ne ha scelti 7, quindi la questione di dire anti-russi e anti-cosi è una sciocchezza, perché nel rapporto segreto che l'agente Garcia, in pensione in realtà, lui era già in pensione, fece per Blatter, e di cui la FIFA diede soltanto un brevissimo riassunto dicendo sì, c'è qualcosina ma niente di grave, in realtà quel rapporto era denunciato tutto. Ed era ben precedente alle polemiche su Ucraina e su tutte queste cose, perché sappiamo che l'inchiesta avanti era parecchi anni, infatti, assolutamente. Infatti è di anni fa ed è, purtroppo, lo ripeto, sono 20 anni che viene denunciata la posizione di Blatter. Grandi personaggi del calcio come Platini, come Figo, il grande calciatore portoghese, come Maradona, per carità, lì nessuno è un angelo, ma tutti certo. a dire questo è un ladro, attribuiamo naturalmente a loro queste affermazioni. Quindi è veramente la scoperta del cavallo. Ecco, tu pensi che da questa crisi possa cambiare davvero qualcosa? Oppure che si spacca? Visto, la UEFA ha minacciato di lasciare la FIFA. Ecco, cosa speri che capiti in questo mondo del calcio globale oggi pomeriggio? Il mondo del calcio globale da qualche anno è diventato, non ho le cifre sotto mano e quindi non spariamole a caso, ma è diventato un business colossale. Qui parliamo di miliardi e miliardi e miliardi che circolano e che naturalmente generano fenomeni come non solo la corruzione ma le scommesse, perché quando tu puoi puntare dei milioni su una partita di quarta divisione in Italia nessuno è più salvo, perché certo è difficile corrompere i giocatori del Manchester United, del Chelsea, del Real Madrid, dell'Inter o della Juventus, ma quando hai dei poveracci che guadagnano 5.000 euro al mese e gli fai balenare l'ipotesi di 100.000 scommettendo, insomma, non siamo santi. Allora, o si fa una bonifica profonda di tutto il mondo del business che si è aggrappato al calcio. Proprio in queste ore vengono fuori degli strani interrogativi su questo uomo d'affari indonesiano, Tohir, che ha comprato l'Inter, uno dei club di maggior prestigio d'Italia. Certo. E non si capisce bene, ha fatto dei debiti per comprare altri debiti, ha prestato a se stesso dei soldi all'8%, cose che francamente ma neanche i computer della Lehman Brothers riuscirebbero forse a capire prima di saltare. Oramai ci sono troppi interessi colossali perché la cosa possa restare oscura. L'America che interviene, che ha sempre rappresentato il business, no? Il calcio è diventato business, se ne vogliono occupare, e ti segnalo, come forse sai, che l'America ha un numero di iscritti, di tesserati al mondo del calcio, da bambine di 5 anni fino ad anziani, che pro capite è superiore a ogni altra nazione del mondo, pro capite, non so in Cina quanti siano, ma lì ci fa presto a fare 300-400 milioni di persone. Quindi è chiaro che l'America a questo punto ha un interesse proprio pratico, d'affari, perché il mondo del calcio diventi un prodotto vendibile. Perché quando tu parli dell'Italia, la grande tragedia dell'Italia è che i proprietari delle grandi squadre non hanno mai capito quello che hanno capito per esempio i proprietari delle squadre di football, di baseball o di basket americano, che loro devono vendere il prodotto calcio, non necessariamente il proprio club, la propria squadra, perché questa composizione di provincialismo d'un tempo e di business globale non regge, salta. Poi ci si mette Blatter, vabbè, Blatter lo sapevano tutti, fammelo dire, che lui vendeva le attribuzioni dei mondiali al miglior offerente e gli passavano di mano soldi. Ma questo fu vero, ricordati Mario, anche per le Olimpiadi. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going!